Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Per la chimica è tutto ciò che ha un pH uguale o inferiore a 7. Per il linguaggio comune è un aggettivo che viene riferito a persone scontrose, pungenti, aspre. Per chi ha problemi digestivi, un problema da evitare, prevenire sempre e comunque. Che cosa facciamo se lo vediamo? Insomma, cosa vuoi capire guardandolo? A meno che, se Dio ci aiuta, non strangoli un passante. Non lo so, Sid, sto improvvisando. Beh, io dovrei essere a casa a lavorare alle mie magie. Ehi, perché non la prendi come una cosa che aggiunge emozione alla tua vita? Piccola, emozione nella mia vita è una cena senza bruciore di stomaco. E per chi lavora in cucina, un sapore da cercare e a volte da temere al tempo stesso. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, vero limone. Ebbene, intanto buongiorno da Nicoletta Carbone. La parola che oggi ci farà da riferimento per l'intera puntata è acidità. Probabilmente avete fatto conoscenza con questo termine nel corso di chimica della vostra scuola superiore. Quanti esercizi sul pH, sull'acidità, non voglio pensarci. Oppure avete un collega, un capo, un vicino di casa così sgradevolmente pungente che non potete che definirlo come acido. Ma io, se siete d'accordo, partirei da qualcosa che succede quotidianamente nel nostro corpo. Il nostro stomaco deve produrre sostanze acide nei processi digestivi. Quello che però fisiologicamente è di enorme aiuto per il nostro corpo e per il nostro metabolismo si trasforma a volte in un vero e proprio boomerang che ci fa star male, rovina la vita a tanti italiani proprio nel periodo che segue i pasti, tanto da spostare poi i sintomi non solo sul versante più propriamente organico ma anche su quello psicologico. Insomma, l'acidità di stomaco non risparmia nessuno, uomini e donne, ma vedremo magari con delle dinamiche differenti. Intanto voglio salutare l'ospite di oggi. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il professor Giovanni Gasbarrini, professore di medicina interna e presidente della Fondazione Ricerca in Medicina. Professore, grazie, è davvero un piacere averla ai nostri microfoni. Grazie a lei e buongiorno. Professore, allora, che cos'è l'acidità di stomaco e chi ne soffre in modo particolare? L'acidità è quella che noi medici chiamiamo pirosi. Pirosi è il senso di acido che si ha qui, nel centro, in alto, sotto lo sterno dello stomaco, in questo triangolino che è limitato dalle coste e in alto è il punto con la termine dell'esofago. Questa sensazione è dovuta dal fatto che nello stomaco, come lei accennava poco fa, viene prodotto l'acido. Le cellule particolari che si chiamano cellule allomorfe dello stomaco producono l'acido, e l'acido è estremamente utile perché serve per una fondamentale parte del processo digestivo. Quindi se non ci fosse questo acido, l'acidità, la digestione non potrebbe. Però c'è un problema, che quando questo acido non va a interessare, a colpire solamente le cellule dello stomaco, che sono protette, quindi uno stomaco normale l'acido ce l'ha dentro, ma non lo sente perché le cellule proteggono da questa sensazione. Se l'acido esce dallo stomaco e va in alto verso l'esofago, quando avviene il cosiddetto reflusso, o va in basso verso il duodeno, dove ci sono cellule diverse che non proteggono da questa profonda acidità, e allora si ha la sensazione dell'acidità, la cosiddetta pirosi. Però quando lo stomaco è leso, cioè la barriera dell'epitelio, delle cellule che proteggono, sono erose, cioè ci sono dei piccoli buchi o delle infiammazioni, ecco che allora l'acidità si sente anche quando l'acido è nello stomaco. ho raccolto un po' di luoghi comuni sull'acidità di stomaco e vorrei che lei ci aiutasse a capire quali verità si nascondono e quali invece sono dei miti, delle leggende metropolitane. Ciò che mangiamo è causa dell'acidità di stomaco. Molti non di noi dicono, ecco, invece non c'entra. Non è vero, cioè quello che mangiamo abitualmente in un soggetto normale non produce acidità. In caso di infiammazione o di lesione, vi sono molti alimenti che possono accentuare l'acidità, ma anche motivi psicologici può aumentare la secrezione acida. L'esercizio fisico aiuta a combattere o a prevenire l'acidità di stomaco? Quale acido, scusi? L'acidità di stomaco. Esercizio fisico come uno strumento, una strategia? Sicuramente, sicuramente. Guardi, dipende da quale tipo di esercizio fisico. Se l'esercizio fisico è fatto stando rilasciati e facilitando lo svuotamento dello stomaco, l'acidità sicuramente migliora. Se però è un esercizio che induce la contrazione dello stomaco, lo spasmo degli sfinteri gastrici e l'acido rimane lì localizzato, allora in questo caso l'acidità peggiora. Certo. Sigarette e caffè, professore. Subito dopo il pasto diminuiscono il problema dell'acidità di stomaco. Molti dicono, prendo il caffè, mi fumo una sigaretta, così digerisco meglio. Questo è un luogo comune che si sente dire e bisogna rispondere con una certa pacatezza, con un certo equilibrio. Allora, il caffè come tale ha molti lati positivi. In un soggetto, per esempio, che produca poco acido, abbia quella che noi chiamiamo dispepsia, cioè difficoltà a digerire, di tipo ipostenica, cioè lo stomaco non si svuota, il mangiare si mette sullo stomaco, eccetera. In quel caso la caffeina, come altre chinine, può facilitare lo svuotamento dello stomaco e quindi facilitare la digestione. Il fumo direi proprio di no, questo no. Però se un individuo ha uno stomaco infiammato o c'ha un buco, cioè ha un'ulcera, allora il caffè non va bene, perché aumenta la secrezione gastrica e quindi il disturbo peggiora. Professor Gasbarrini, la pennichella dopo pranzo peggiora l'acidità di stomaco in chi ne soffre? Cara dottoressa, ci risiamo. Dipende da chi la deve fare. Allora, coloro che sono in genere in una fase di tensione psichica, che hanno una vita esagitata, irruenta, in cui spesse volte il sistema nervoso che controlla le nostre secrezioni induce un aumento dell'acidità, in quelli un riposo postprandiale andrebbe benissimo, perché lasciamo lo stomaco a fare quello che deve fare, cioè digerire e svuotarsi. Lo svuotamento dello stomaco è fondamentale nel controllo della cosiddetta insufficienza digestiva, che noi chiamiamo dispepsia. Se però un individuo non digerisce e invece di farsi una bella passeggiatina si piazza steso a letto con tutto il mangiare sullo stomaco e non stimola questo svuotamento, allora la faccia la digestione. Allora un po' se la vuole, professor Gasbarrini, eh? Giulio, certo. Da Verona. Buongiorno. Giulio, mi dica. Premetto che sento questa acidità semplicemente quando esagero con il mangiare. Dopo mangiato non mi fermo mai a letto, ma vado immediatamente in piedi a lavorare, per cui diciamo solo in alcuni casi. Ho scoperto da solo, questo quanto sia utile, che prevendo, quando sento questa acidità, prevendo una spremuta di limone, le due dita classiche di limone nel bicchiere, questa mi scompare. Cioè non so, io ritengo il limone un acido, cioè... Quindi acido scaccia acido. Sentiamo il professor Gasbarrini. Quello che dice il nostro ascoltatore è una cosa molto interessante, che purtroppo non viene spiegata delle volte ai cosiddetti pazienti, cosiddetti perché, come ha detto lei, questa pirosi gastrica più o meno in breve periodo o a lungo ce l'hanno quasi tutti una volta o più volte nella vita. Allora, l'ascoltatore ha detto: quando esagero un po' nel mangiare, allora lo stomaco è una cavità che si può distendere, ma distendendola un po' al di sopra di quello che è il suo contenuto abituale. abituale, cosa succede? Che quello che c'è dentro, cioè il mangiare, compreso l'acidità, che ha aumentato l'acido cloridrico dopo tutto questo mangiare, tende a uscire. Allora, se uno ha le cosiddette incontinenze degli sfinteri, cioè, per esempio, al termine fra l'esofago e lo stomaco c'è uno sfintere che si chiama il cardias, che se non è ben continente si molla un po' e questo contenuto dello stomaco ritorna in esofago. Ecco là che allora in questo caso succede che il sensazione di bruciore retrosternale bassa peggiora. E tanto è vero che una causa di questo tipo di disturbo, per esempio, è la obesità. Perché? Perché nell'addome, sotto, cioè nella parte inferiore dello stomaco, c'è molto grasso, che è un grasso retroperitoneale, quindi è qui, e allora che spinge, che non permette allo stomaco di svolgere bene, di allargarsi, e quindi lo comprime, ed ecco che il reflusso peggiora. Ma quello che è stato detto è ancora più interessante, perché dice: ma come mai che una sostanza acida mi fa scomparire l'acido? Migliora? Certo. E guardi che questo le donne in fase di gravidanza, specie al primo trimestre, hanno spesso l'acidità dello stomaco qui in alto, sì, al punto di passaggio fra esofago e stomaco. E le mamme una volta consigliavano: fatti una bella limonata. Sante mamme, adesso non lo dicono più. Quello era un reflusso acido, quello era un reflusso biliare, alcalino, ma l'esofago parla con quella sensibilità con cui può parlare. Il disturbo è sempre lo stesso, ma non è detto che l'acidità a livello dell'esofago sia dovuta a una sostanza alcalina come la bile o all'acida. Quindi quasi sempre in quelle condizioni proprio la sostanza acida come gli agrumi eccetera possono dare dei vantaggi. Le ricette dei Magnifici 20, buoni piatti che si prendono cura di noi, l'autore Marco Bianchi, ricercatore ed esperto di comunicazione didattica scientifica dell'Istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, di oncologia molecolare, è in linea con noi. Marco, ciao, benvenuto e bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Il professor Gasbarrini ci ha già parlato delle proprietà del limone. Noi in cucina, quando parliamo, pensiamo all'acido, pensiamo al limone, pensiamo all'aceto. Tra l'altro aggiungono sapore, ma hanno anche delle preziose virtù. Abbiamo tante volte detto che il limone, ad esempio, aiuta l'assimilazione del ferro. Marco? Confermo completamente, Nicoletta. A parte che proprio il discorso del limone viene praticamente tutti i giorni sotto mano in cucina. Io quando preparo ad esempio anche il classico hummus di ceci, per riempire verdure, fare crostini, insomma, per amici, come antipasto, spruzzo sempre dentro il succo di un bel limone, proprio perché favoriamo l'assorbimento del ferro. E quanto diceva il professore, assolutamente confermo e condivido, ricordiamoci che non sempre appunto gli agrumi sono portatori di acidità, addirittura il pompelmo, color rosa poi innanzitutto, proprio in primis, rappresenta una buona fonte di alcalinità, quindi combatte l'acidità. E poi vabbè, non parliamo solo di pompelmo, l'arancia rossa ad esempio, io ormai è un po' di tempo che in qualche modo la diffondo il più possibile come forte antiacido addirittura, e le antocianine presenti all'interno dell'arancia rossa ad esempio favoriscono anche un qualcosa di molto buono, ovvero riducono l'assorbimento dei grassi, quindi insomma io direi che mantiene il cuore sano, il colesterolo a buoni livelli e la linea anche, quindi gli agrumi come vedi sono anche proprio amici di tutto il nostro organismo, tutto il nostro corpo. Senti Marco, quale possibilità hai nella lista dei tuoi magnifici 20 di trovare un rimedio, una soluzione almeno parziale all'acidità di stomaco? Abbiamo visto che gli alimenti acidi non necessariamente provocano acidità, anche se poi scopriremo con il professor Gasbarrini quali magari sono più da limitare, alcuni di questi, sì. Penso ad esempio al pomodoro, molti lo sconsigliano a chi soffre di acidità, ma andiamo invece ad alimenti che coccolano il nostro, che lo tratta trattano bene il nostro stomaco, no, stomaco, evitano di provare questa sensazione così sgradevole. Guarda, sono casualmente proprio nell'elenco dei magnifici 20. Ma io il libro lo so a memoria quasi, Lo so Nicoletta. Allora, guarda, di sicuro hanno una reazione comunque positiva sul nostro stomaco e combattono l'acidità, quelle che sono le mandorle, l'uva secca, i datteri, le carote, il sedano e addirittura, vabbè, per fortuna, perché stanno arrivando anche di stagione, melone, albicocche e ananas, l'ananas fresco, mi raccomando. E poi, vabbè, è passato un po' di stagione, tutta la famiglia dei cavoli, però aiutano anche loro a combattere l'acidità grazie appunto al potere alcalinizzante che hanno. E poi per l'appunto il limone stesso, le pesche, le mele, la pera e il miglio. Il miglio, vabbè, nel libro ne propongo tante ricette, tante alternative particolari interessanti. Il miglio non lo utilizziamo tutti i giorni perché, insomma, sembra proprio il classico mangime per gli uccellini, sì. Ma insomma, se sappiamo elaborarlo, renderlo più ricco nella nostra tavola, ti assicuro che diventa un piatto molto molto importante e appunto che aiuta a prevenire anche tanti disturbi, tra cui proprio l'acidità dello stomaco. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Io ringrazio tutti voi, Nicoletta, è sempre un grande piacere, ti ringrazio tanto, veramente. Silvana dalla provincia di Belluno, buongiorno Silvana. Buongiorno, dottoressa. Niente, volevo un semplicissimo rimedio che usiamo noi in montagna. Sì. Sciroppo di lumaca. Sciroppo di lumaca? Sì. Sembra un po' una cosa da strega, Silvana. No, tutt'altro. E come si fa? Professor Gasbarrini, lei lo conosce lo sciroppo di lumaca? Sì, sì, guardi, lo sciroppo, l'estratto di lumaca, di bava di lumaca, viene usato anche da donne, lo dico così per la signora, per la correzione su in certe preparazioni particolari. Io ho letto, leggo in giro, avendo molte mogli, per carità, ne ho una sola ormai da 55 anni, no, molte donne in famiglia, sì, figlie, mogli dei suoi figli, che le adoperano anche per le rughe. Allora lì il distorbo è in questo senso, è un concentrato di zuccheri e di saliva e di proteine, sì, che può in un certo senso proteggere, ma in maniera transitoria, lo stomaco se ci sono delle erosioni, ma scientificamente non è provato. Parlo di pubblicazioni fatte, certo, su riviste internazionali, in questo campo non ce ne sono. Silvana, ma mi dice come fa a preparare lo sciroppo di lumaca? Io credo che le sbatte e le fa cuocere. Sì. Però io voglio dirle questo, sì, che anticamente, le parlo di circa 100 anni fa qui in montagna, non scandalizzatevi, no, per i dolori, per l'acidità, inghiottivano una lumaca viva. Viva. E adesso io, come ho sentito di questo sciroppo di lumaca, l'ho preso e le assicuro che è molto... Quindi lei lo compra, Silvana, lo sciroppo? Certo. E uno se lo mette anche in faccia per le rughe? No, quello non lo metto, grazie. Silvana, proviamo io e lei, poi ci mandiamo le foto. Grazie a Silvana, grazie, che ci chiama dalla provincia di Belluno. Al professor Gasbarrini vorrei chiedere che cosa si può nascondere dietro questa acidità, oltre alla scelta sicuramente di quello che mangiamo e di come ci muoviamo. Ci sono degli esami da fare? C'è lo zampino dell'Helicobacter oppure il reflusso, come mi chiede Carlo? Ma intanto Silvio da Lecco, vediamo se ha un suggerimento da darci dopo la bava di lumaca. Silvio, è dura, Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. E collegandomi al discorso della bava di lumaca, sì, per esempio da noi, nella nostra zona, ma penso un po' anche in altre zone, andava molto mangiare le rane vive. Mamma mia, ma ne abbiamo fatte di tutto vivo, buttavamo giù. Perché il liquido che secerna la rana, dicevano che andava a coprire le pareti, credo, dello stomaco. Saltando da una parte all'altra, professor Gasbarrini, sì, vive nello stomaco. La rana ha una carne, per quelli che la mangiano e che io trovo sia molto appetitosa, nella provincia di Piacenza, eccetera, e ha una carne molto leggera e contemporaneamente nutriente. quindi è una carne che magari è gradita di più di altre carni, diciamo così, fra virgolette, più pesanti, sì, nel senso che provoca di meno acidità. Quindi io credo che non è che sia un rimedio, sì, ma è che può essere accettata anche a chi soffre in genere di acidità. Certo che ci vuole un bello stomaco a mandare giù una rana viva, come Silvio. No, viva no. No, come suggeriva Silvio, dice che si faceva un tempo. Silvio, lei invece che cosa fa, a parte le rane? Ma dunque, io ho la nonna di mia moglie che quelle poche volte che ho bruciore di stomaco o simili mi prepara un bollito, diciamo un decotto di scorze di limone che infatti conserva man mano in frigorifero quando utilizza i limoni e poi fa bollire la scorza del limone e me la fa, e me la fa bere, funziona, devo dire. Essere e benessere. Eccoci tornati, noi abbiamo un appuntamento con Silvio, buongiorno. Io ho mia moglie che è incinta, aspetta, aspetta tre bambini. Ma che bello, auguri. Grazie. Prima avete detto che utilizzare il limone aiuta ad assumere meglio il ferro, meglio il ferro. Quindi, visto che mia moglie è vegetariana, quindi non professor Gasbarrini, allora qua bisogna venire in aiuto della, della moglie di Silvio, tre bambini, Questa è una cosa molto interessante anche sul piano proprio scientifico. Allora, le anemie, come tutti sanno, sono soprattutto le più classiche, dovute o a carenza di ferro o a carenza di B12 e di folati. Allora, lo stomaco svolge un ruolo importantissimo, sia perché produce delle sostanze che servono proprio per la cura delle forme che noi chiamiamo macrocitiche, cioè delle anemie non da carenza di ferro, ma anche perché l'acidità dello stomaco e per esempio l'aggiunta di limone può trasformare il solfato ferroso, una molecola del ferro, dal trivalente in divalente, e in questo caso viene assorbita. Se manca quello, succede che il ferro, anche se lei lo mette giù, non viene assorbito, però certo nei prodotti farmaceutici è già trasformato e quindi viene assorbito. Quindi questo concetto dell'acidità che interferisce sull'assorbimento del ferro è assolutamente giusto. Quindi alla moglie di Silvio, e anche in generale, se la moglie di Silvio aspetta tre bambini, è vegetariana, aggiungere sicuramente una spruzzata di limone agli spinaci, ma anche ai ceci, come ricordava Marco Bianchi, aiuta ad assimilare il ferro. Possiamo suggerire questo, professor Gasbarrini? Certo, ma dottoressa, poco fa l'ottimo ricercatore, il dottor Bianchi, diceva di alcuni alimenti, lei ne ha accennato. Allora, qui bisogna stare un po' attenti, perché ha detto si può aggiungere qualcosa. Sì, allora, ci sono alimenti come per esempio l'ananas, o come le carote, il melone, ma questi certo che vengono ben assorbiti. L'ananas contiene fra l'altro una sostanza antinfiammatoria. Sì. Poi c'è per esempio la liquirizia, no? La liquirizia ha un effetto sicuramente antiacida o protettore dello stomaco, però bisogna stare attenti perché la liquirizia provoca ipertensione arteriosa, quindi dipende da chi lo prende. Certo. Sicuramente una cosa che non fa bene all'acidità da reflusso è la menta, e molta gente per correggere i bruciori si prende la menta, le caramelle di menta, e le peggiora. Quindi bisogna stare molto attenti, fare un'analisi precisa di quando è che ti viene l'acidità, che cos'è, e allora vengono fuori le cosiddette allergie alimentari, che fortunatamente sono rare, non più del 2% della popolazione ha la vera allergia alimentare. Sì. Delle volte questi termini sono allergico a, e invece magari è intollerante, ma non allergico. Comunque sta di fatto, per esempio, il latte, che uno dice mi bevo un bel bicchiere di latte quando ho acidità, e concettualmente andrebbe bene, ma il latte contiene del calcio e il calcio provoca stimola la secrezione di un ormone che si chiama gastrina, che incrementa moltissimo l'acidità. Quindi ha un effetto transitoriamente benefico e poi ci frega. Detto questo, se una persona ha ripetutamente questa acidità di stomaco, eccetera, rapidamente va dal medico e quali esami potrebbe prescrivergli? Può ricercare l'Helicobacter, va a fare la gastroscopia, ma proprio oggi vogliamo stare più sui rimedi che sulle indagini, ma è giusto parlarne. Glielo dico addirittura? Certo, professore, pendo dalle sue labbra. Adesso. Dunque, guardi, il primo esame da cercare è sicuramente, secondo la mia esperienza, l'Helicobacter pylori. Mm. Allora, attenzione, l'Helicobacter pylori, per le regole di Maastricht che noi abbiamo fatto, al di sotto dei 45 anni non richiede necessariamente la gastroscopia. Che bella notizia. Al di sotto dei 45 anni, perché è a più basso rischio per il cancro dello stomaco. Okay. Allora si ricerca, e si ricerca con l'urea breath test, cioè un test sul respiro. Sì. E si fa soffiare in una provetta, si prende una sostanza particolare che induce, se c'è l'Helicobacter, a produrre urea, e si risoffia dopo mezz'ora e si vede se l'infezione c'è. Se l'infezione da Helicobacter c'è, non è asintomatica, cioè uno ha l'Helicobacter e non ha disturbi, ha i sintomi, perché ha l'acidità, ha il reflusso, e allora deve eradicarlo. Se però questa acidità è da molto tempo e si ha l'impressione addirittura che il reflusso con acido venga su nell'esofago fino alla gola, la mia esperienza è quella di fare la gastroscopia, ma non solo, attenzione, perché serve per vedere se ci sono della gastrite, se c'è l'Helicobacter attraverso le biopsie, eccetera, ma anche per vedere che tipo di sostanza c'è nello stomaco, perché se è una sostanza gialla vuol dire che c'è la bile che è refluita. La cura per la bile, la sensazione di acido per un reflusso non acido ma biliare, deve essere curata in maniera diversa dall'acido puro. E l'acido puro viene curato oggi soprattutto con i cosiddetti PPI, che sono gli antagonisti della pompa protonica profondi, che sono i derivati dell'omeprazolo. Certo. E qui c'è una grande questione. I medici la danno la mattina. Tutti, anche i professori che hanno fatto ricerca. Sì. Io la do la sera. Questo, allora le spiego meglio, perché vorrei farmi capire. Se lei dà un antiacido profondo al mattino, prima di colazione, lei mette questo soggetto in condizione da annullare l'acido. E allora come fa a digerire? Certo. Allora, è meglio darlo la sera, in cui l'acidità arriva al massimo verso le 2 di notte e lei la protegge. Professore, io devo dire che questo ragionamento lo trovo perfetto. Io sposo la sua impostazione. Professore, lei deve tornare a trovarci, perché dobbiamo dedicare una puntatona al reflusso. Intanto io la ringrazio molto per essere stato con noi, per il tempo grazie che ci ha dedicato. Ci sentiamo prestissimo. Ok. Che tasso di acidità c'è nella vostra vita? Ci sono dei casi in cui l'acidità la subiamo in altri campi, ad esempio sul lavoro, in famiglia, nelle relazioni personali. Insieme al dottor Francesco Aquilar, che è in linea con noi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, oggi ci occupiamo dell'acidità, intesa un po' come un tratto della personalità, un sapore che avvelena le nostre relazioni, che ci ferisce a volte anche profondamente. Intanto buongiorno dottor Aquilar, ben tornato. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, quale correlazione esiste tra il pH acido e l'umore di chi magari parla male di noi o con noi, oppure ci fa stare male? Non credo che esistano particolari e significative correlazioni. L'acidità nelle relazioni interpersonali per alcune persone è una specie di gioco, è un modo attraverso il quale ritengono di entrare in relazione più simpaticamente e ponendosi in una posizione più alta con gli altri. Il più delle volte però è un gioco che non solo rischia di far male all'interlocutore, ma rischia di schiacciare anche quello che lo propone. Dottore, l'acidità, la battuta tagliente, ferisce molto di più che magari la critica oppure anche le male parole. Insomma, ci fa stare a volte meno male la persona che si arrabbia con noi violentemente piuttosto che quella che ci punzecchia. Sembra che infatti dietro all'acidità ci sia un attento studio di noi e proprio un progetto predeterminato per ferirci. Questa è forse la ragione per cui la viviamo così male? Sicuramente questa è una delle ragioni. In realtà il progetto predeterminato il più delle volte non è necessariamente costituito per ferire una persona, ma è che nella rappresentazione mentale della persona acida c'è una realtà pericolosa e potenzialmente aggressiva, e quindi la persona finisce per suscitare proprio quell'aggressione che vorrebbe prevenire con questa azione. Ecco perché questa rappresentazione del mondo come aggressivo e ostile, spesso una sequenza precedente di delusioni non elaborate e la mancanza di relazioni interpersonali soddisfacenti, sono sovente alla base di una personalità acida nella maggioranza delle situazioni. Poi qualche volta l'acidità ci serve per difenderci, qualche altra volta, come dicevamo, per giocare, se entrambi amiamo il limone e giochiamo a chi fa la migliore limonata. Dottor Aquila, proviamo allora a dare oggi delle indicazioni. Come si reagisce ad una battuta acida e poi soprattutto come possiamo evitare che questa battuta ci ferisca e diventi per noi un pensiero rimuginante, perché dopo che siamo stati feriti iniziamo a dire perché mi ha detto così, perché ce l'ha con me, io non sono stato capace di rispondere, ecco, è sempre la stessa, e in fondo mettiamo anche molto in discussione la nostra autostima. Ma intanto l'acidità spesso esprime un giudizio e dobbiamo tenere ben presente in mente che il giudizio dice poco sull'oggetto del giudizio, ma dice molto sulla personalità del giudicatore. Quindi se qualcuno ci tratta acidamente sta soltanto esprimendo il suo modo di essere, in realtà non colpisce noi, è la sua rappresentazione mentale della realtà. E questa è la prima, come dire, strategia di difesa. La seconda strategia di difesa è l'umorismo, pacato, tranquillo, perché per competere dobbiamo essere in due. Se io non accetto la sfida, non entro nella bagarre, rendo inutile l'azione acida dell'interlocutore. E la terza è che anche se qualcuno si comporta male, non necessariamente dobbiamo dargli anche il potere di farci soffrire. Quindi restituiamogliela a lui con tutta la sua acidità. Dottor Aquila, noi la vediamo sempre negli altri, ma no, è possibile che anche noi abbiamo degli atteggiamenti un po' acidini. Come facciamo ad accorgercene? Ma intanto dobbiamo prendere molto sul serio quelli che ci fanno una critica di questo genere, perché sono dei veri amici. Se qualcuno ci fa notare che noi siamo stati acidi senza volerlo, che noi abbiamo esagerato nell'acidità e trasformata la battuta spiritosa in un modo di colpire, dovremmo essere pronti a ringraziare l'interlocutore che ce lo fa notare e a stare più attenti a certi automatismi che a volte si sono instaurati nelle nostre relazioni. Magari proveniamo da una famiglia nella quale l'acidità era la regola di comunicazione e possiamo differenziarcene, e ci conviene riflettere sul fatto che è più vantaggiosa una strategia cooperativa che non una competitiva nella maggioranza assoluta delle situazioni. Dottor Aquila, grazie per essere stato con noi, abbiamo preso appunti. Allora, l'acidità in fondo ci fa un po' meno paura. Assolutamente sì, e grazie a lei e a tutti i nostri ascoltatori. A presto, grazie, buona grazie. Giornata. Essere e benessere. Siamo tornati insieme finalmente perché c'è da lavorare, cari amici, ci sono tante cose che ci aspettano. In modo particolare in questa chiusura di trasmissione ci aspetta una canzone che molto probabilmente non abbiamo mai ascoltato, o pochi di noi l'hanno fatto. Un film e un libro, e soprattutto per legare questi tre strumenti che noi utilizzeremo per il nostro benessere, c'è Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, che in questo mese di agosto si è trasformato in arte terapeuta. Mamma mia, quante cose. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, e mi spiace che siamo arrivati. Siamo alla fine, soprattutto per molti di noi le vacanze staranno terminando, quindi abbiamo bisogno di fare, no? Di avere quel coraggio di tirare su baracche e burattini e di buttarci in una nuova avventura. Sai che la ripresa è sempre faticosa. C'eravamo abituati a stare in panciole, belli e tranquilli, belli e rilassati, e invece sai cosa iniziavamo ti dico a farci oggi? La bocca, come si dice. Esatto. Eh? E il motto di oggi è un motto che probabilmente ci serve tanto in questo passaggio da vacanze a ritorno alla quotidianità: agitare prima dell'uso. Un motto che tu tante volte hai raccontato nel tuo programma, leggi sempre sui farmaci, magari devi fare attenzione a tante cose, ma è un motto che ci riguarda anche in prima persona. Agitiamoci allora. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar, una vitamina quita pena, para poder regalar, un remedio para cuando duela, un apaño, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de esperanza, un tratamiento de viento si quieres volar, para festejar la primavera, un comprimido de amor, para sentir calor y dar candela, dos infusiones de sol, para las cosas malas y el buena, un apaño, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de felicidad, la vida es la felicidad, agítese antes de usar, vida es la felicidad, se puede consumir sin consultar, vida es la felicidad, no tiene Alberto, ma questa voce a me sembra un po' di conoscerla. Perché questa è la voce di Rosana che cantava ai tempi El Talismán, una canzone che ha avuto di nuovo uno straordinario successo, ma al di fuori di quella canzone non l'ha praticamente poi più ascoltato o più conosciuta nessuno, invece ha proprio un repertorio magnifico e tra l'altro secondo me nella sua voce c'è proprio il suono, il timbro delle isole da cui proviene, che sono le Canarie. Tra l'altro lei è stata anche ha duettato anche con Zucchero, vero? Ha fatto proprio Lasciami mamma fare mia, questo ne sai... piccolo sfoggio di ne sai veramente una più di tutti gli altri ed è proprio così che noi abbiamo avuto anche a Questa Casa Non È Un Albergo. Esatto, ed è stato un incontro proprio da agitarci. Altro che agitare prima dell'uso. E a questo punto direi che proprio sul suo ritmo, sull'intensità della sua voce, proviamo a capire cosa questa frase ci può dire oggi, anche con l'aiuto del film che abbiamo selezionato oggi. E di nuovo è uno dei film che mi hai consigliato tu. Veramente? Io sono andato a vederlo dopo che tu mi hai detto che valeva la pena. Vai. La dedica arriva da una città lontana per una ragazza davvero speciale. Mi chiamo Bert e la mia ragazza è incinta e frustrata. Vattene. Ok, abbiamo una notizia. A giugno partiamo. Ma la bambina nasce a luglio. Per Anversa. Vi trasferite a 5.000 km di distanza da vostra nipote. Credo che siano più di 5.000, no, Jerry? Credo di sì. Non dobbiamo per forza restare qui. E dove possiamo andare? Il mio lavoro lo posso fare dovunque. Ma l'hai guardato l'itinerario? Te l'ho spillato all'interno della giacca. Un tempo avevo delle belle tette, vero? E le hanno prosciugate. Adesso me le posso anche infilare nei calzini. Sei pronta, Bert? Quindi, Alberto, da questo capisco che segui i miei consigli. Sì, e beh, in quanto a cinematografia lo possiamo svelare questo segreto ai nostri ascoltatori. Franco D'Assisi dovrebbe in realtà fare molta attenzione, perché ha proprio un competitor dentro la radio e sei tu sei veramente una grande conoscitrice di cinema e una grande amante anche di film. Tra le altre tante volte io e te ci troviamo a discutere proprio su tutti i consigli che Franco dà nella Rosa Purpurea. Sì, questo è vero, ma perché a me piace andare al cinema d'inverno, alla domenica pomeriggio. E tu guardi tantissimi film. Io ho un marito interista e allora, dato che lui deve sempre andare a vedere l'Inter, perché sennò l'Inter non gioca, così pensano tutti i tifosi, allora io con le mie amiche vado al cinema, alla domenica pomeriggio, fantastico, e me li godo tutti. E questo te lo sei goduto in particolare, sì, perché American Life di Sam Mendes, lo stesso regista di American Beauty. In realtà questo titolo gliel'hanno dato solo in Italia, perché il titolo originale era Away We Go, cioè andiamo lontano oppure andiamo in un altrove, ed è una storia secondo me tenerissima, delicatissima, di due personaggi magnifici, ci sono piaciuti a tutti e due, ce lo sì. siamo proprio raccontati, che sono Bart e Verona, sono sulla soglia dei 30 anni, aspettano un bambino che non era atteso ma è arrivato, e con molta leggerezza e anche con tanto affetto, che sì, anche un po' di incoscienza, decidono proprio di fare un viaggio avvicinandosi alla casa e alla famiglia d'origine, convinti che i genitori saranno lì pronti a dare una mano. E invece... Come sai che succede sempre più spesso, ci sono queste giovani coppie che pensano di lasciare poi il pupetto ai nonni, e i nonni dicono non possiamo perché abbiamo viaggi da fare oppure altri progetti, insomma i nonni non ci sono più, i nonni di una volta sono sempre delle figure meravigliose, ma devo dire che negli ultimi tempi i nonni hanno capito e quando possono se la danno. E questo andare in un altrove alla ricerca di qualcuno che ti può magari aiutare, sostenere, condividere il tuo progetto e che invece non è lì per te perché è già andato da un'altra parte, secondo me è una fotografia magnifica, a tratti simpatica, a volte invece molto dolorosa, proprio della contemporanea precarietà in cui si trovano molti, molti dei nostri figli, molti adolescenti, anche molti giovani anche noi, uomini. Ci siamo trovati. La mancanza del lavoro, l'insicurezza in se stessi, sia negli altri, la paura di essere abbandonati, e un po' quest'idea di forse la mia vita è tutto un fallimento, è quella che rimane sulla scena di fondo di questo film, per cui io l'ho collegata ad agitarsi prima dell'uso, perché prima della nascita di questo bambino questi due, Bart e Verona, si agitano come dei matti cercando di avere conferme da un mondo che non glielo può dare, e scoprono che la vera forza ce l'hanno dentro ed è nel loro essere così come sono. Alberto, passiamo allora al libro? Sì, è un libro con cui concludiamo questo nostro percorso. È un libro in cui mi sono imbattuto quasi per caso e ho trovato interessantissima, soprattutto nell'idea che dà l'incipit un po' a tutta la storia. Si intitola Ti ascolto, scritto da Federica De Paolis, Bompiani Editore. Non c'è davvero nulla che mi aspetti in nessun luogo. È tutta la vita che mi muovo per spostarmi, come se ogni volta mi potessi allungare di un centimetro. Pensare di vivere nel mondo invece che in un paese o in una città o magari addirittura in provincia mi ha fatto sentire un ginnasta olimpico che con tre capriole può camminare sui continenti. Con tre lingue in tasca, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco, sono come un mazzo di chiavi dalle mille varianti. Eppure stasera sento che più lungo di così non posso diventare, e se c'è qualcosa che cerco è cominciare a radicarmi e smettere di inventarmi la vita ed entusiasmarmi per una strada nuova. Ora che l'occhio è fermo, sento che devo percorrere strade che conosco e affidarmi non all'istinto, all'ignoto, ma alla ringhiera delle scale, alle maniglie, a paesaggi che non vanno scoperti, ma guardati semmai per la prima volta, per bene. Ti ascolto, di Federica De Paolis. Alberto, un libro abbastanza singolare, già come idea, perché il protagonista... Diego Tribeca, è un uomo, un trentenne, che ha viaggiato in lungo e in largo, proprio perché aveva le chiavi delle lingue straniere in mano e scriveva guide di viaggi. Improvvisamente si trova, per un distacco della retina, a dover stare fermo immobile in un appartamento, e c'è una... Però viaggia anche lì. Viaggia, e come? Perché succede questo incantesimo che per un guasto telefonico, con il suo telefono suona tutte le volte che quattro coinquilini del palazzo fanno o ricevono telefonate. Quindi lui, sollevando la cornetta, entra nella vita di questi quattro personaggi e ascolta pezzi di storie che non avrebbe mai potuto conoscere. Tra l'altro sono le storie di personaggi molto particolari che fotografano dei mondi diversi. C'è una donna operata di tumore al seno. C'è un adolescente che in realtà è lì a fare i conti col diventare grande, ma che con un problema di anoressia. C'è un ragazzo che incontra e seduce le donne giocando a scarabeo su Google. Essendo in crisi sentimentale molto grave. È proprio un mondo in cui lui, grazie a queste piccole cose che intercetta dalle telefonate, si inserisce, molto molto delicatamente diventa punto di svolta per la vita degli altri e lì improvvisamente capisce che ciò che va cercando è la svolta per la sua vita. Alberto, grazie per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguiti, noi dobbiamo salutarvi rapidamente e darvi appuntamento a domani.